Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua di rientro in studio per Radio Città Fujiko. Dopo il GR di Radio Popolare troviamo quello che è il Last Minute che ci porta per la serata al binario, serata di oggi giovedì 4 aprile, quindi dalle 19:30 in partenza con quella che è l'accoglienza del binario, come sempre calorosa, arrivata al termine si può dire o quasi della realtà di stagione inizio 2024, poi ci sarà un procedere e ovviamente con i 103.1 col Breakfast Club e Radio Città Fujiko vi daremo informazione. Intanto però cosa aspettarsi per questa sera? Paolo Maggi Groove Session con il featuring di Guglielmo Pagnozzi, musica composta all'istante, interazione, scambio di idee, improvvisazione allo stato puro su una ritmica di base groove dinamica sensibile ai cambi di tempo, di un'ispirazione veramente molto molto ritmica e groove, quindi attinente anche al DJ set che porterò questa sera. Adesso poi avremo modo di sentire la voce del protagonista, ormai definito redattore per Radio Città Fujiko, in quanto ha preparato una presentazione, un'anticipazione sia dei suoi lavori che anche di quello che ascolteremo al concerto, lanciando lui stesso i brani selezionati. Paolo Maggi, un'attenzione appunto, come ho detto, all'interplay e un'intenzione di portare musica con un groove dinamico e soprattutto un grande gusto. Bene, allora direi di iniziare con questa presentazione curata da Paolo Maggi stesso per Radio Città Fujiko. Sentiamo le sue parole. Sessions nascono da mie improvvisazioni al pianoforte, però su una base ritmica, in questo caso una batteria virtuale, e seguendo un flusso di idee poi perfezionate in seguito, insomma. Cioè alcune parti sono state rifatte. Una volta completati, i brani sono stati affidati alla batteria di Filippo Mignatti e in ultimo si è aggiunto Roberto Red Rossi, che è venuto con le congas qui a studio da me a completare il lavoro. Il disco è stato recentemente pubblicato dall'etichetta Barley Records Encore Music. Come ascolto vorrei proporre il brano numero 4, appunto The Groove Session numero 4. Forte che con gusto, con grande note soul, sa interagire, è capace di intuizioni commistionate con una ritmica incisiva di dare uno spazio e allo stesso tempo una sonorità palpitante e gustosa per questa contemporaneità e allo stesso tempo un'ispirazione black, se vogliamo, ma non solo, per le note di Paolo Maggi che troveremo questa sera. We'll be right back. Stasera alla batteria sarà presente Lele Veronesi e oltre al già nominato Roberto Rossi alle congas ci sarà un ospite speciale, Guglielmo Pagnozzi. Ai sax, contralto e soprano e forse anche al clarinetto. Vedremo. Guglielmo lo conosco dagli anni 90 e ho sempre ammirato in lui la padronanza tecnica e la grande creatività. Però ci siamo acchiappati effettivamente solo 3 anni fa, quando gli proposi di suonare in un brano da un mio progetto su un Pino Daniele strumentale, e adesso ve lo propongo, si chiama A me mi piace blues. Di Paolo Maggi ringrazio anche Sergio che scrive ma ieri non avevo capito che si trattava di Paolo Maggi, stasera salutamelo, musicista soprappino. Grazie Sergio, presenterò assolutamente. E anche il redattore, perché ha preparato lui tutti questi pezzi di anticipazione in sintesi del concerto. Mi piacerebbe farvi ascoltare un esempio di improvvisazione totale, che è poi la filosofia che guida questo tipo di esibizioni dal vivo. Pianoforte e clarinetto di un paio di anni fa, con uno sfondo di tipo elettronico e comunque ritmico. Maggi Pagnozzi, improvvisazione numero 1. Questa sera al binario, inizio serata 19:30, l'accoglienza calorosa del binario, DJ set sia per l'introduzione del concerto, presentazione dei musicisti, grazie a Paolo Maggi per l'ottimo lavoro di Last Minute, da redazione Radio Città Fujiko all'ispirazione e al talento di un musicista che porta note soul and groove e un'interazione, come ho detto, con l'elettronica, per cui un Ramsey Lewis che interpreta Pino Daniele, beh, assolutamente, anche se l'originalità di Paolo Maggi riporta poi l'attenzione a quello che è un musicista dotato e soprattutto coinvolgente. E questa sera al binario, inizio concerto ore 21:30, dalle 19:30 la serata, DJ set sia di introduzione e di accompagnamento post concerto da me curato. Tra poco entriamo in mostra, il Last Minute di oggi termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio anche Paolo e vi do appuntamento questa sera al binario 69 in via De Carracci. A tra poco. Mm-hmm.